Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, siamo qui alle 8 e 20 minuti. Eccoci qua, sei sopravvissuto a un, devo ammettere, un rio colpo del destino, proprio un malefico colpo del destino, sì. Bisogna dirlo. È vero cose... che era giusto il pareggio, ma quando sei al 93esimo e stai vincendo. Esatto, potrà essere giusto, ma queste sono teorie, esatto. In pratica 90 è finita, no? E avevi anche azzeccato il pronostico, no. Dicendo sarà 2-1, capisci che... Do atto. Poi sarei stato contento, magari oggi anche con un 2-1 gli interisti avrebbero pensato di aver vinto comunque, con una post verità, però poi insomma beccarsi l'ironia, l'endecasillabi, sì, del meazza, sì, insomma, sì. Sempre così. Vabbè, ma lasciamoli così a meno 8, dai, sorridere. Vabbè, questo mi sembra, ecco, un altro giusto spirito di giustizia, no? Ragazzi, no, perché guardate che io devo capire, io ho sofferto, quando è avvenuto il mio pensiero, è andato ad Alessandro dicendo, oh mio Dio, perché è una cosa umanamente che... È... Ti dirò, io ho sofferto meno di quanto avrei pensato, se mi avessero detto all'inizio, guarda che becchi gol al 94, all'ultimo secondo... Ma questo però ti va dato atto, perché sei un tifoso realista, fin dall'inizio della stagione, se uno va a vedere cosa hai scritto e cosa hai detto, rispetto alle previsioni, San Benedica, così. Come si dice, cioè ma sta andando fin troppo bene. Esatto. A proposito di benedizioni, i santi? A proposito di benedizioni, oggi è San Matteo. Ops, no, no. Ce l'abbiamo tra poco. No, avremo Matteo Renzi alle 8:30, questo, ma non è San Matteo. Non è San Matteo. Oggi è la dedicazione della Beata Vergine al Signore. Cos'è la dedicazione? È il fatto che nei Vangeli normali è rimasto poco, anzi, della Vergine prima di Cristo quasi niente. Invece negli Apocrifi è pieno di particolari. Quando la presentarono al Tempio di Gerusalemme, si capì che la ragazzina aveva un futuro, per così dire, miracoli, cose eccetera eccetera, quindi si ricorda questo. Tra altri santi invece, auguri a chi si chiama Agapio e a chi si chiama Gelasio, Gelasio I Papa. Tra le cose da ricordare in questo giorno, la nascita di Voltaire, 1694, che nel bene e nel male, insomma, un uomo grande per la nostra modernità, di Björk, che è la cantante svedese che io ho sempre amato tantissimo, perché è al centro dell'incrocio, dell'ibridazione di stili musicali, secondo me in maniera assolutamente geniale, e sono senza parole all'idea di vedere quanti decenni sono già passati ai suoi grandi album che me la fecero scoprire, e a Lorenzo Guerini, il vice segretario del PD. Ho messo insieme un po' di gente di storie diverse. Sì. Allora, tra l'altro, possiamo fare un annuncio, caro Oscar? Sei pronto? Sono prontissimo. Sei prontissimo. Preservati questa settimana perché, no, vogliamo dirlo, dai, domenica al Manzoni di Milano torna Platone. Ci sono io, c'è Leonardo Manera, c'è Oscar Giannino, c'è Mauro Meazza, ci sono i Chapter 11, c'è tutto. Quindi mi raccomando, venite domenica milanesi sera. Milanesi, ma anche fuori Milano, certo, prendete in vi avvisiamo apposta. Esatto, domenica 27 novembre, domenica prossima, dalle 19:45 c'è un grande buffet, insomma, e poi Platone. E poi Platone, si, perché si ride, ragazzi, molto sull'informazione. Non si sa mai, visto come sta il nostro editore, e qui è Gruppo Sole, noi stiamo esaminando il nostro futuro. Non si sa mai. No, va bene. Caro Oscar, a me è colpito vedere Angela Merkel che dice mi candido contro i populisti per la quarta volta. Sì. Cioè si dice il ricambio, noi in Italia ci lamentiamo dello scarso ricambio, allora in Francia Sarkozy l'hanno seccato, va bene. Aspetta, Francia, osservazione a casa volante, grande, meritatissimo, schiaffo alla destra italiana, perché lì si fanno le primarie col doppio turno e al primo turno, i sondaggisti ancora una volta, ciao, a vincere e François Fillon, e Sarkozy arriva ultimo, finito. Quindi il metodo viva per la destra francese, ma torniamo, perché è un inciso, torniamo a quello che dici tu, concludi la cosa. La Merkel ti ha molto colpito, non mi ha sorpreso però, perché è Obama ha detto la verità quando ha detto ti consegno il baluardo Se ci, o ci riesci tu in Europa contro i populismi, cioè oppure non ha alternative in Germania. Non ha alternative in Germania perché nel suo partito ci hanno provato in tanti, però nessuno è emerso con straordinaria forza. Voglio dire, ad averci provato e ci continua a provarci ancora è stato Schäuble, che però è stato scartato anche come capo dello Stato, perché giustamente, anche se in Italia nessuno l'ha notato, la scorsa settimana CDU, CSU, i democristiani insieme ai socialdemocratici hanno adottato come candidato di convergenza, senza litigare, senza insultare, altra lezione di metodo, Steinmeier, il socialista. Quindi alternative vere, capaci di avere il suo consenso, il suo partito non ce l'ha. E quindi lei si propone. La Mutte, però, la mammina Merkel, pragmatica, che raramente alza la voce e di solito è disposta a cambiare idea pur di trovare soluzioni che funzionano, cioè il nome del pragmatismo è ancora la possibile soluzione. Sì. Però per la quarta volta, ecco, questo è quello che colpisce, per la quarta volta. E contro i populismi, sì, effettivamente questo endorsement di Obama è un po' un endorsement. Dove il populismo in quel caso è Alternative für Deutschland, cioè nazionalismo e sciovinismo molto forte, a meno forte rispetto alla sua nascita ai temi del pregiudizio verso i latini spreconi, che sarebbe noi, però c'è anche quella componente là. Va bene, chiederemo anche questo a Matteo Renzi, no? Che dobbiamo dire, la quarta volta di Angela Merkel. Tra l'altro, Oscar, dico, dove si possono trovare i biglietti per Platone? Dai, è molto semplice, teatromanzoni.it, è il Teatro Manzoni, il più importante teatro di Milano, senza fare torta agli altri, ma andate lì. C'è una punta di paraculismo. Così, cioè. No, perché in previsione noi stiamo prendendo lezioni, io guardate che c'ha un tutù, lui è anche alla Scala, vuole andare alla Scala il mio Alessandro, però per il momento Manzoni. Allora, dai, facciamo così, andiamo in pubblicità, perché tra 4 minuti avremo Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, ospite qui a Radio 24, parleremo ovviamente di referendum, ma non solo, le nostre domande a lui, tra poco. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, caro Oscar, siamo qui alle 8:31, tra qualche istante avremo ospite e al telefono Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, che stiamo cercando attraverso i centralini di Palazzo Chigi, ma sarà ovviamente qui a questi microfoni tra pochissimo, per parlare di referendum, anche di Angela Merkel, di questa Angela Merkel al quarto mandato. E poi parleremo di tasse, vero, se sono scese o se sono salite o se non sono, semplicemente non sono troppo spostate, parleremo di tante altre cose. Non parleremo di questo titolo del Fatto Quotidiano, che stamattina mi ha molto incuriosito, non so se in rassegna, non ce l'ho fatta a sentire tutto, sono arrivato un po' dopo, quindi la Rai in Bosca Verdini. Ma sì, allora lì c'è Giorgia Meloni che ha fatto un faccia a faccia al TG2 con Verdini, però al momento non è stato mandato in onda. E poi hanno detto è stato praticamente, ne avevano troppi e hanno sorteggiato quelli da cancellare. E casualmente. La riffa del referendum, Meloni ovviamente dice, accusa, che non vogliono mostrare che Verdini sta al fianco di Matteo Renzi, questa è la linea secondo Giorgia Meloni. Ma l'avevano registrato però. L'avevano registrato, infatti, però dice non l'hanno mandato in onda, ovviamente per il Fatto Quotidiano è un sospetto che non sia una cosa casuale. Un sospetto di questo tipo. Cioè che ci si vergogni del compagno. No, sì, che ci si vergogni, non sappiamo questo. In ogni caso sono le 8:32 e con noi ci ha raggiunto e lo ringraziamo il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, come puoi immaginare, abbiamo una sfilza di domande qui da farle, quindi le chiediamo più come siamo, a tutti. Più esatto, ne facciamo. Esatto. Le chiedo questo, intanto sono Alessandro Milan. Lei ha detto varie volte. Questo l'avevo riconosciuto. Già. Va bene. Si è ripreso dal derby ieri, sì. È abbastanza, cioè 92esimo. Non tanto. Se vince il no. È già il premier fa il cattivo. Esatto, questo già fa il cattivo. Il dito nella piaga. Ho fatto il cattivo. No, ironia. Va bene, serietà. Via, lei sono, ha detto pronto. Se vince il no, l'ha detto varie volte, niente governicchi. Ma ci spiega esattamente cosa significa? Cioè, dovesse vincere il no, ovviamente, cosa che lei non si augura. Lei il 5 dicembre che fa? Va da Napoli, rimette il mandato, cioè ce lo dica. No, vabbè, casomai Mattarella. Però scusi Mattarella. No, il problema, che cosa succede se vince il no, è semplice. Se vince il no, nella Costituzione italiana rimane tutto com'è. Cioè rimangono il CNEL, il Parlamento più numeroso e più costoso del mondo, rimane l'unico paese al mondo che ha un sistema di doppia fiducia, cioè la Camera e il Senato danno la fiducia al governo, rimane un sistema totalmente arzigogolato e rimane il trionfo della burocrazia. Vorrei che questo fosse il tema, perché se per tutta la campagna elettorale, talvolta anche per colpa mia, diciamolo, il dibattito è soltanto su cosa faccio io dopo, secondo me non aiutiamo i cittadini a scegliere. La vera questione è: se vince il sì, si cambia, se vince il no, manteniamo la situazione di oggi. E io penso che questo paese debba cambiare, e il cambiamento che proponiamo è molto semplice, molto tranquillo, niente di inventato. Sì. E quindi di conseguenza speriamo che... Però un riflesso politico ci sarà, lei l'ha detto. Sì, ci sarà, sia che vinca il sì, sia che vinca il no, il riflesso politico. Però siccome altrimenti, anche per colpa mia, ripeto, non permettiamo ai cittadini di fare le proprie valutazioni, io vorrei che i cittadini potessero decidere per il sì o per il no in modo consapevole sulla scheda e sul quesito elettorale. Anche perché una riforma costituzionale non è una cosa che capita una volta alla settimana, quindi per 10-20 anni resteremo così. E siccome io penso che il mondo nei prossimi 10-20 anni cambierà ad un ritmo ancora superiore a quello di questi ultimi anni, a mio giudizio c'è bisogno di un'Italia che funzioni. Cioè la riforma non è importante in quanto tale, ma perché permette al paese di essere più agile e di affrontare le sfide. Vabbè, rimaniamo a noi governicchi, non sappiamo. Beh, però nel caso le sembra un tipo che sta dentro il governicchio tecnicchio, che cerchia di vivacchiare per mantenere agli uni e agli altri le poltrone. Cioè io ci sto finché posso cambiare le cose, poi qualcuno può dire che cambio bene, qualcuno che cambio male, però qui si poteva far cos'ha, tutte le cose legittime della politica, ma non c'è dubbio che da quando ci siamo noi in Italia stanno accadendo delle cose, non tutti sono d'accordo, che prima non accadevano. Sì. Questo mi sembra un dato di fatto, no? Che condivide anche chi critica il governo, leggi bloccate da anni, dalle unioni civili fino al grande tema delle riforme costituzionali, ma dallo sblocco delle opere incompiute fino al piano Industria 4.0 che libera molti investimenti per l'economia digitale e più in generale per il rinnovo profondo delle nostre aziende. Ecco, queste cose stanno accadendo. Se dobbiamo tornare con quelli di prima, che vivono soltanto nella logica dei veti reciproci, lei dice no. Per me, ma è chiaro, è la sua. Presidente, ce ne sono molto più bravi, ecco. Presidente Oscar Giannino, vado al merito della riforma sui conti e poi sempre sui conti le faccio due domande in una. La prima molto semplice: si cambiano molto le competenze tra Stato e Regioni e ci avevamo un bilancio alle spalle che era negativo, quello del titolo quinto. Però la domanda è, per quelli come me, perché non approfittare dell'occasione? Lei ci ha appena detto che si fa una riforma ogni X anni, chissà quando si farà la prossima. Perché non approfittare dell'occasione per intervenire su questa anomalia, io la considero così, tanti come me, quella delle regioni a statuto speciale, che rispetto alla spesa media delle altre spendono in più 14 miliardi. Quindi non si tratta di abolirle, si tratta di cambiarle, ridurle alla spesa media pro capite che è di 3.504 euro, quella delle regioni ordinarie, loro ce l'hanno da 5.083, sommato 14 miliardi e mezzo. Quindi la prima domanda è: perché non approfittare di questa occasione? La vicenda siciliana ogni giorno noi ce ne dobbiamo occupare, non sono tutte uguali, però questa è la prima domanda. La seconda domanda, a proposito sempre di risparmi, e gliela devo fare perché lei dice chi mi critica dimentica che comunque le tasse scendono e così via. Allora, il professor Ricolfi nel bilancio che ha fatto dei suoi 1000 giorni, le faccio solo un esempio, dice, secondo me ha ragione per come fa i conti, però le chiedo, domanda: nel 2014 il governo, la PA, ha incassato 12.778 euro per abitanti, nel 2016 12.956, 178 in più. Questi numeri dicono che quello che lei ripete sempre, scende il prelievo, di fatto non è vero. Ecco, due questioni di numeri. Spero di essere stato chiaro. Parto dalla seconda, anche se non riguarda la riforma costituzionale. Dice Ricolfi, i dati dimostrano che ci sono più cittadini, diciamo, che pagano, a differenza degli annunci di Renzi. Allora, cerchiamo di essere chiaro. In questi due anni e mezzo, che con poco più di due anni e mezzo dei 1000 giorni, noi abbiamo ridotto le tasse in alcuni punti, poi i tecnici ritengono che gli 80 euro non siano riduzione di tasse, ma calcolano i 10 miliardi degli 80 euro come aumento di pressione fiscale. Lasciamo stare, cioè li calcolano come prestazione sociale. Il punto è, se lei fa l'elenco, vede che adesso non si paga più l'IMU sulla prima casa, l'IRAP costo del lavoro, storica battaglia, corretto, che anche lei, Giannino, corretto, più volte richiamava in tanti momenti. Ci sono state le decontribuzioni per il Jobs Act, che Ricolfi ritiene sbagliate e che io invece ritengo utili per dare lavoro alla gente. Dal prossimo, ci sono tutte le tasse agricole che se ne sono andate, perché secondo me non abbiamo il tempo per affrontarla, ma la grande questione agricoltura è una questione strategica dei prossimi 20 anni, perché con l'aumento dell'export e con un diverso tipo di gestione del territorio potremo investire moltissimo qui. E ci sono state poi le misure che entreranno in vigore con questa legge di stabilità, vale a dire l'IRES, ci sono e ci saranno, l'IRES che passa dal 27,5 al 24, ed altre misure che vi risparmia essenzialmente l'IRI ed altro. Bene, a fronte di questo meccanismo, cos'è che è aumentato nei nostri conti? È aumentata la lotta all'evasione fiscale. Il mio governo negli ultimi 70 anni è il governo che ha fatto il risultato migliore di recupero dell'evasione fiscale, 14,9 miliardi di euro. Ah, ma a me questi metodi che voi avete utilizzato, vale a dire la digitalizzazione, la dichiarazione telematica, la fatturazione elettronica, non piacciono, tutti i punti di vista rispettabili, ma il dato di fatto è che se lei fa una graduatoria degli ultimi 70 anni, lei vede che il governo che ha preso più soldi di tutti dal recupero dell'evasione fiscale è il nostro. Naturalmente a qualcuno per piacere, ad altri no, ma se io guardo il campionato dell'anno scorso, a me non piace come è andata a finire, ma ha vinto la Juve. Perché? Perché ha fatto più punti di tutti. Chiedo scusa Alino per questa battuta. Presidente, però a me tocca fare il mio mestiere. Ci sono anche cose che sono aumentate, oltre a quello che lei ha diminuito. Tipo? Cioè, scusi, mi dica qualcosa. Il prelievo sulle casse professionali e sui fondi previdenziali, no, lo avete aumentato 2 anni fa. Lo avete aumentato, non diminuito. Quella partita del 2004. Vengo nel merito. Giannino, mi ha fatto due domande. Almeno mi faccia rispondere. Ho risposto alla prima. Il mestiere è solo dirle, non è che sono solo. Altrimenti non si spiegherebbe che i numeri di Ricolfi sembrano inventati. I numeri di Ricolfi sono numeri che vengono collegati all'aumento, la mia opinione perlomeno, poi non ho visto lo studio di Ricolfi, è che se uno dice lo Stato incassa di più, è perché lo Stato ha recuperato dall'evasione fiscale. Però io gli ho citato aumenti di aliquota sul posto. No, scusi, questo lei si riferisce al decreto legge 66 del 2014, quello degli 80 euro, in cui a fronte di un maggior recupero di soldi, famosi 10 miliardi per gli 80 euro, si è intervenuto sulla imposta sulle transazioni finanziarie. Lei ricorderà che è passato dal 12,5 al 26, anzi no, era già al 20 se non ricordo, e stiamo parlando però in questo caso di misure che valgono e sono del febbraio, non sono della legge di stabilità, sono il primo intervento, quindi fuori dalla legge di stabilità, quello degli 80 euro, che valgono, se non vado errato, un totale dai 3 e i 400 milioni. Il punto, Giannino, non è questo, è che la tassazione non è aumentata in Italia a livello statale. Nel primo anno però le addizionali regionali e nel primo anno anche locali hanno continuato a crescere. Questo è il punto. Per il portafoglio dei cittadini è lo stesso. Veniamo alle regioni speciali, perché se lei mi aggrava di 2 miliardi il prelievo io l'anno prossimo con gli obblighi trimestrali, aumenta il prelievo. Perché dobbiamo creare confusione agli occhi dei cittadini inutilmente? Aumenta il prelievo di 2 miliardi l'anno prossimo sui conti trimestrali IVA. Andiamo alle regioni. Scusi Giannino, questa è la clausola di salvaguardia, che è una cosa diversa. Vale a dire, noi abbiamo da sempre delle clausole di salvaguardia che in parte abbiamo ricevuto e in parte abbiamo messo, che stiamo cercando di eliminare e per adesso abbiamo eliminato. Domando a Giannino, qual è stata l'ultima volta in cui è aumentata l'IVA in questo paese? Ce lo ricorda Giannino? Sì, è aumentata di un punto, però lei, gli obblighi trimestrali di comunicazione non c'entrano con l'aliquota IVA. Gli obblighi trimestrali per tutte le partite IVA, io capisco che voglia cambiare argomento, però non c'entrano neanche con la clausola di salvaguardia. Giannino, la cosa migliore è andare alle regioni. Scusi, sono sul punto perché lei mi fa una domanda, io per rispetto a lei e agli ascoltatori le devo rispondere con molta calma. Le ho domandato, visto che lei dice che aumenta l'IVA, Le domando, quando è aumentata l'IVA l'ultima volta di un punto? Aumenta l'incasso, lo dite il governo, 2 miliardi Giannino, con le clausole Giannino, trimestrali Giannino, che sono più oneri per noi di Giannino, partita IVA. Anche Giannino, per lei dovrebbe essere meno difficile stare sull'argomento. Le obbligazioni, gli obblighi di comunicazione non trimestrale non c'entrano con la liquidità. Io capisco che non lo vuole dire. Allora, no, ma ci arrivo. Le ho fatto una domanda. Sì, non detto, con lei. Quando, siccome lei ha chiesto a me sì. quando, che noi aumentiamo, ha detto a me che noi aumentiamo le tasse. Il gettito IVA aumenta 2 miliardi per sole, sì, questa cosa. Cortesemente Giannino è così cortese, facendo il moderatore, di farmi rispondere certo. almeno questo. Non importa avere una laurea per capire questo, Giannino, mi segua. Quando è stata l'ultima non si preoccupi, volta infatti in cui, lo so bene. Quando è stata l'ultima volta in cui è aumentata l'aliquota IVA in Italia? Non con il suo governo. È aumentata nell'ottobre del 2013 perché il governo precedente esatto. non è riuscito a bloccare la clausola di salvaguardia. Sì. Ok? Allora, se la domanda è sulle clausole di salvaguardia, io le confermo che noi faremo di tutto per eliminare le clausole di salvaguardia e abbiamo 2 anni e mezzo di risposta. Non è su quello la domanda. Perfetto, ma siccome lei mi ha detto che aumentiamo le tasse, le ho risposto. Circa gli obblighi trimestrali di comunicazione e l'aumento ipotizzato del gettito da questo e da altre misure, l'opinione del MEF e della ragioneria è a che stiamo parlando, però lo diciamo agli amici che ci ascoltano, della legge di stabilità 2017 che, come è noto, con la riforma costituzionale non c'entra niente, ma pur di non parlare di riforma costituzionale ma noi vorremmo presenti, io avrei 10 domande da farle ancora, riuscirò forse ragazzi, a farne 2 Giannino, ce n'è una sulle regioni io non ho speciale. Problemi però siccome mi è stato detto che devo allora passiamo molto alle regioni a statuto no, speciale devo rispondere nel merito perché sennò sembra che sia sfuggente, perdonatemi. Il punto centrale è che i dati che ci vengono dalla Ragioneria dello Stato dicono che attraverso un metodo diverso come quello delle comunicazioni trimestrali sarà più semplice incassare denaro perché si eviterà il rischio di ulteriore evasione. Dall'altro lato i commercialisti, le categorie ci dicono ehi, occhio, perché la comunicazione trimestrale è un di più di adempimenti e quindi in fase di legge di stabilità stiamo discutendo su quello che si può fare e che non si può fare per combinare le due esigenze. Ma il punto chiave è che in questi 2 anni e mezzo, siccome la ritengo una svolta epocale per la sinistra, le tasse sono andate giù e dal 2016 abbiamo impedito ai comuni e agli altri di alzare la pressione bene, fiscale. Si fermi ecco, qui su questo tema, Presidente. Passiamo alle regioni a statuto giro. Speciale. Altrimenti, le regioni a statuto speciale. Le regioni a statuto questa... speciale non sono toccate dalla riforma costituzionale. Perché? Non sono toccate dalla riforma costituzionale perché il Parlamento o ha scelto di mantenerle in ottemperanza ai principi del passato o, come io penso, perché non c'erano i numeri per poter cambiare. Ma chi va a votare sulla riforma costituzionale va a votare per eliminare alcuni poteri dalle regioni che oggi le regioni hanno, i poteri concorrenti, e va a votare per eliminare gli scandalosi rimborsi dei consiglieri regionali e va a votare per eliminare sprechi della politica che senza una riforma costituzionale non si potrebbero eliminare, a cominciare dai fondi del Senato che dovrebbero andare ai gruppi parlamentari, abbiamo scoperto che vanno a pagare gli affitti dei dipendenti della comunicazione di 5 Stelle come Rocco Casalino. Mi spiego e finisco. Sì. È vero che per qualcuno, per esempio per Giannino, ma non soltanto per Giannino, a dirla tutto, questa riforma avrebbe potuto anche toccare le regioni a statuto sì. speciale. Aggiungo, dico io, per il mio punto di vista, questa riforma avrebbe dovuto, secondo me, anche diminuire il numero dei deputati anziché diminuire soltanto dei senatori. E mi sarebbe piaciuto intervenire su tante altre questioni. Qualcuno dice anche sui poteri del Premier che non sono toccati e che non vengono... Ma non c'erano i voti? Non se nel voti. Momento in cui la riforma è finita, 2 anni e 4 giorni di dibattito, 85 milioni di emendamenti, 5.000 voti ed è la prima volta che c'è una riforma così grande, uno può dire sì ma ben altro si sarebbe dovuto fare, vero? Ma per carità, io sono sempre d'accordo con chi dice la vera sfida è la prossima, ma chi vota il 4 dicembre vota sì o no? Ha una domanda specifica su quei punti lì, cioè dice volete che le competenze regionali tornino allo Stato in parte sui temi delle infrastrutture dei trasporti, delle politiche energetiche, anzi delle politiche turistiche, anziché averne 21 ciascuno per singole regioni e province autonome, oppure volete continuare così? È chiaro. Cioè, Presidente, le chiedo la questo. Sì o no, non è sì o ben sì, altro. Le chiedo questo. Poi nel merito sarebbe interessante discutere, su alcune cose sarei anche va d'accordo bene, con c'è questo, c'è questo audio del governatore campano De Luca che agli amministratori locali in sostanza dice: non vi frega niente se vi piacciono Renzi, ma Renzi porta tanti soldi per la campagna. Questa cosa non la imbarazza? Messa così? Anche questo è un grandissimo tema di approfondimento per chi vuole capire il quesito referendario. Non c'è dubbio, pur di non parlare del quesito, del resto ormai siamo a discutere di tutto, quindi posso tranquillamente parlare di De Luca. Enzo De Luca ha un metodo che, come è noto, non è il mio, e di fronte alle sue dichiarazioni sull'onorevole Rosi Bindi, io sono stato tra i primi e i più duri a dire che, a mio giudizio, De Luca aveva profondamente sbagliato. Egli poi ha chiesto scusa e credo che si possa prendere atto di queste scuse. Nel merito, i soldi per la campagna. Sì, noi stiamo portando molti soldi per la campagna. Perché? Perché è una vergogna che alcune regioni del sud non siano messe in condizioni di fare ciò che serve al paese. Cerco di essere molto breve per avere le altre 9 domande. Primo punto. Se Pompei crolla, fa una figuraccia, stavo per dire una parolaccia, fa una figuraccia a tutto il paese, non soltanto la Campania. Da quando ci siamo noi, Pompei fa notizia perché finalmente siamo tornati a fare funzionare quel lavoro lì, anziché essere un crollo costante. La Reggia di Caserta abbiamo mandato un dirigente che un sindacato della Reggia, dopo una settimana che eravamo lì, si chiama Mauro Felicori, ha mandato una lettera per dire: oh, ci avete mandato uno che lavora troppo alla Reggia di Caserta, e adesso la Reggia di Caserta fa 70% in più di biglietti rispetto al passato. Su Bagnoli, dopo anni di prese in giro degli italiani, abbiamo messo i soldi e commissariato per far partire la bonifica di una delle aree più belle del mondo, che deve essere restituita a Napoli e ai napoletani. Lo facciamo noi perché non l'hanno fatto altri. Su Terra dei Fuochi, il danno che fa l'export agroalimentare, il nome Terra dei Fuochi, è inimmaginabile. Abbiamo messo un sacco di soldi perché possiamo liberare finalmente la Campania da questo. Va bene, quindi... Aspetti, rispondo a De Luca. Sì. Di fronte a questo, De Luca, che non ha un metodo che è il mio, è uno degli amministratori, da sindaco di Salerno, che ha fatto meglio. Cioè il De Luca sindaco, perché noi abbiamo due De Luca in testa. Qualcuno, la stragrande maggioranza degli italiani, pensa al De Luca personaggio di Crozza, sì, che tra l'altro è simpatico in modo molto molto evidente. Dall'altro c'è il De Luca che ha fatto il sindaco a Salerno e che ha rovesciato quella città, facendone un esempio di buona amministrazione. Allora, io non condivido il metodo di De Luca, ma vedo che se tutto il Mezzogiorno fosse stato amministrato come De Luca ha amministrato Salerno, oggi il PIL dell'Italia sarebbe 1% in più. E siccome io ho un problema di PIL, perché il Nord è ripartito, anche se ancora si può fare meglio, eccetera. Il Nord però è ripartito, sì, più 656.000 posti di lavoro secondo Istat, meno 700.000 lavoratori inattivi, cassa integrazione che crolla, ripartenza globale e generale dell'economia nel Nord. Ma è chiaro, se non parte il sud si è rovinati. E quindi... Presidente, ancora un secondo sul referendum. Il referendum, come sa, non tocca, sarebbe stato la sorprenderci in caso contrario, il tema dei poteri del governo, le banche, il credito. Eppure quello che succede, e questa è Radio 24, quindi noi siamo preoccupati di questo, è che l'intero comparto degli interventi di risanamento e di ripartenza delle banche, a cominciare da MPS, addirittura ha messo nel documento che il piano MPS non parte a seconda se vinca una o due o l'altra parte al referendum. La domanda che le faccio è: non c'è stato un eccesso di drammatizzazione per cui rischiamo, a seconda di cosa scelgono gli italiani l'indomani del referendum, che MPS, l'aumento di capitale di Unicredit, cioè partite molto importanti che oggettivamente non c'entrano con la riforma, che ha una sua dignità e importanza ma che prescinde da tutto questo, però rischiamo troppo, ci siamo autoesposti con l'autodrammatizzazione. Oggi, fine della domanda, Giovanni Zanni di Credit Suisse dice al Corriere della Sera: si è esagerato, insomma è un errore per l'Italia aver alzato così i toni. Lei che dice? Rispetto alle valutazioni dei banchieri internazionali, io la vedo così. Questo referendum è un referendum che è atteso da 35 anni, perché tutti dicono, tutti, che la carenza di riforme infrastrutturali è stato il primo elemento di deficit e di competitività del paese. E io sono d'accordo su questo. Siamo arrivati a un bivio in cui si può finalmente cambiare, e in cui si può non inventarsi strane dissertazioni dalle tasse alle regioni a statuto speciale alle banche ai poteri del Premier, ma si vota su una semplificazione del sistema che darà più stabilità e più forza all'Italia in Europa e nel mondo. Questo passaggio va fatto. Come si poteva fare? Si poteva fare meglio? Io quelli del partito del si poteva fare meglio li voto sempre, perché secondo me si poteva sempre fare meglio. Ma siamo a un punto decisivo e delicato. È colpa del governo italiano se Monte dei Paschi negli ultimi 20 anni ha fatto quello che ha fatto? Beh, io se mi invitate un'altra volta, no, magari certo, fuori dal dibattito referendario, certamente discuto con voi volentieri delle clamorose responsabilità della politica certo, sul Monte dei Paschi. Certo. Ma oggi il punto è che se il referendum passa, a mio giudizio l'Italia ha una forza e una solidità, anche vedendo gli altri paesi europei, che è impressionante. Se il referendum non passa, niente di male, manteniamo un sistema con il bicameralismo paritario in cui i veti e i controveti dei giochi politici sono quelli che sappiamo e in cui una, non posso dire accozzaglia se non si offendono, sì, una variegata coalizione che va sull'Europa da Monti a Salvini, che va sulla politica da D'Alema a Grillo, che va sulla giustizia da Berlusconi a Magistratura Democratica, rimane, dovrà dire non soltanto no, ma dovrà raccontare che cosa pensa. Insomma, io non mi sento responsabile, caro Giannino, se stiamo provando a cambiare l'Italia. No, certo, perché no, quando no, ho capito, capito, la sua risposta è no, non abbiamo sbagliato a drammatizzare. Non stiamo drammatizzando noi. No, c'è un referendum che è, volete ridurre il numero dei parlamentari, sì o no? Tutto il film e la panna sopra, non l'abbiamo fatto noi. Abbiamo 30 secondi, è Presidente. La domanda è, volete ridurre il numero dei parlamentari? Volete sì, contenere i costi? Volete superare il bicameralismo paritario? Volete abolire il CNEL? Penso che siamo tutti d'accordo. E volete cambiare il titolo quinto su cui ci penso che siamo tutti d'accordo. Ci dica, Presidente, però, perché abbiamo 30 secondi, sull'Europa, ma davvero manterrete il veto al bilancio? Io non ci credo, che è uno strumento di pressione, ma poi l'Italia non è che lo dobbiamo mantenere, non l'abbiamo ancora messo, perché beh, sì, manterrete il preveto, confermerete, voglio dire. Come funziona? Il meccanismo è semplice, ogni 6 anni si fa il bilancio, per noi l'ha fatto il governo Monti. In questo bilancio noi diamo 20 miliardi di euro all'anno all'Europa e ne prendiamo indietro 12. Io non ho giuridicamente possibilità di bloccare questi 20 miliardi, ok, per sì, quest'anno. Sì. Posso soltanto dire che siccome nei prossimi giorni e nelle prossime settimane inizierà la discussione sul prossimo bilancio, noi diremo ci va bene essere un soggetto che mette più soldi, siamo l'Italia, siamo forti, siamo un grande paese, però uno o sull'immigrazione iniziate a fare le persone serie oppure questi soldi noi non li mettiamo perché li teniamo a casa nostra e ci organizziamo per i fatti nostri, o e sull'economia non potete continuare con una filosofia dell'austerity che è una filosofia che non porta da nessuna quindi parte. È una minaccia concreta, è una minaccia non è una concreta, minaccia, è un come potete dire, è un amorevole consiglio, non parliamo di accozzaglia ma di coalizione, non parliamo di minaccia ma di grazioso suggerimento agli amici europei. Io mi sono rotto le scatole di quelli che dicono ce lo chiede l'Europa. Vabbè. Secondo me l'Italia è un paese forte, ha fatto le riforme, ci siamo spaccati la schiena in questi mesi a cominciare dal Jobs Act per far ripartire il paese, sì, ci sono i primi segnali di ripartenza ancora non sufficienti. Io dico o l'Italia adesso gioca in grande in Europa oppure se dobbiamo continuare con ce lo chiede l'Europa riprendetevi il governo tecnico, erano così bravi loro che va si bene fermi così. Lì, si fermi lì, grazie. Buon lavoro, Matteo Presidente, Renzi, buon lavoro, tutti buona Presidente del Consiglio, arrivederci, alla prossima.